Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. Per tutti gli amici dell'Islam, i mujahideen su tutta la planeta, non esiteranno pas, chaque fois qu'ils en auront la possibilité, a trancher vos têtes, tant que vous continuerez à bombarder. Gli eventi e gli accadimenti di cui stiamo parlando da vari giorni anche in questa radio, ma sta parlando tutto il mondo dell'informazione, comunque fanno riferimento a il contrapporsi dei grossi blocchi, grossi modi di pensare, due grosse civiltà o civilizzazioni su piani diversi. Da una parte c'è il pensiero che in qualche maniera dovrebbe essere portatore di valori che si rifanno al mondo islamico, d'altra parte c'è il pensiero che dovrebbe farsi portatore di valori che si rifanno all'Occidente cristiano. Vedete, entrambe queste affermazioni sono parziali. È l'ISIS rappresentativa del mondo islamico? È la voce del Papa rappresentativa dell'Occidente civilizzato? Ecco, siccome siamo su un piano di comunicare comunque dei valori, oggi di questo parlerò. Le modalità e i segnali e le forme attraverso cui questi due mondi contrapposti si comunicano. È chiaro che la comunicazione è parziale, è chiaro che il fraintendimento è totale, è chiaro che manca una serenità di base per poter giudicare gli eventi se noi ci fermiamo soltanto alla superficie della comunicazione. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. L'ISIS annuncia: la Francia non vivrà in pace, gli ostaggi uccisi uno ad uno al grido di Allah è grande, raccontano i sopravvissuti. Ora, non voglio dire che l'Occidente è rappresentato da quello che dice il Papa, in assoluto. È una parte dell'Occidente che fa riferimento comunque a una fede religiosa, è rappresentata da quello che dice il Papa. Ma in generale il sentire occidentale dell'Occidente civilizzato dovrebbe perlomeno, almeno in apparenza, anche se non profondamente sentito a livello profondo e vissuto da tutti gli esseri umani che compongono il cosiddetto Occidente, avere un passo avanti rispetto all'intolleranza religiosa, all'intolleranza ideologica, una sorta di pensiero che si trova su un piano di comprensione superiore e permette e dà come principio assoluto la libertà, l'uguaglianza, la fraternità. Non a caso in questi giorni stiamo mandando tutti la Marsigliese, che ha un profondo significato. La Marsigliese ha tagliato in nome della Marsigliese sono state tagliate le teste ai sovrani e anche a molti preti in nome della libertà, uguaglianza e fraternità. Quindi è l'antidogma per eccellenza nei confronti dei valori umani, non dei valori che traggono la loro ispirazione da principi superiori. D'altro punto di vista esiste un Islam che viene rappresentato, sembra rappresentato solamente dalla punta più estrema, da quelli che vanno per strada, che sparano, che ammazzano, che uccidono, che hanno messo a punto una strategia molto precisa che abbiamo descritto in quest'ultimo anno in maniera capillare, che parte da un format televisivo, degli spot seriali in cui l'esecuzione capitale è la base del racconto, che cresce attraverso una sorta di creatività. Vengono uccise persone attraverso sistemi sempre più creativi per dar l'idea che la morte sia il vero brand da diffondere. Si arriva poi alla fase ulteriore dell'attacco a Sciame, comincia a Parigi, che è una sorta di promozione porta a porta, fino a quello che non ti arriva dalla televisione ti arriva sotto casa tua, viene come il venditore del folletto, quello Kalashnikov sotto casa, e ti ricorda qual è il prodotto che vende. Ma è realmente questo l'Islam? È realmente quello l'Occidente? Ecco, su questo oggi vorrei interrogarmi. Lo dico perché ieri ho provato a fare un sondaggio su Twitter, col valore che può avere un sondaggio su Twitter. Ho detto semplicemente: Vi sembra ancora una buona idea fare il giubileo dopo quello che è accaduto a Parigi? È una domanda, semplicemente, senza mettere in crisi nessuno. E ho visto che ha prevalso anche l'ideologia. Chi mi dice no, dobbiamo rimanere in piedi contro questo terrorismo, non dobbiamo rimanere chiusi, sì, viva il giubileo, viva il Papa. E altri mi dicono invece al contrario. Basta, tanto è tutto magna magna, è una cosa basata soltanto sull'economia. Manca la serenità di giudizio. Perché? Perché probabilmente l'inquinazione, l'informazione è inquinata. E oggi vorrei riportare, se possibile, un po', non dico di serenità, ma di laica attenzione a quella che è l'informazione rispetto a questi due mondi. Per farlo un ospite che voi conoscete bene, Bruno Ballardini. Bruno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che è un esperto di marketing, comunicazione strategica, ha scritto due libri, secondo me fondamentali oggi per definire quella che è la mia ipotesi. Da una parte ha scritto Leader come Francesco, perché il Papa è un genio del marketing, edizione PM, un libro di un anno fa, e poi Isis, il marketing dell'Apocalisse, Baldini e Castoldi, un libro uscito da pochissimo tempo. Allora Bruno, proprio alla luce di quello che è accaduto in questi giorni, come è cambiato il meccanismo della comunicazione dei due blocchi che in questo momento si contrappongono? Che non sono blocchi omogenei, diciamolo subito. Tu stai parlando dell'ISIS da una parte e del... La vulgata è questa. Ecco. Da una parte c'è l'ISIS, da una parte c'è il Papa con il giubileo. Non esiste in mezzo nulla di comunicabile o di comunicato. Ma il Papa continua per la sua strada e probabilmente questa è l'ultima chance che ha di riunire su temi condivisi tutta la comunità cattolica, perché il primo tentativo, quello del referendum fatto via internet con tutte le diocesi di tutto il mondo, che è stata un'azione spettacolare dal punto di vista dell'avanguardia ideologica, concettuale, perché assomiglia alla formazione della Costituzione dell'Islanda, no? Cioè dal popolo, chiedere che cosa volete, che cosa pensate che la Chiesa debba fare. Questo non è mai stato fatto prima, nessuno ha notato questa novità. Bene, e questo infatti non c'è stata pochissima informazione. La risposta del popolo, della Chiesa, è stata abbastanza conservatrice, quindi dietro poi ci sono le gerarchie che sono ancora più conservatrici e quindi lui non può fare tutta l'azione di innovazione, di rinnovamento della Chiesa, e si riduce a dover fare un giubileo. Almeno back to basics, torniamo ai fondamentali. Che è grande evento comunque. Che è comunque sempre un grande evento, l'ha fatto... È la convention, è il momento importante. Sì, sperando che ne esca fuori qualcosa, io ho dubito perché lo vedo un po' appannato ultimamente e quindi diciamo il grande slancio che ha entusiasmato tutti, anche i laici, iniziale, si è un pochettino andato ad affievolire. Io non mi pento di aver scritto un libro su Francesco da laico, facendo i complimenti per le sue capacità manageriali, ma poi non facciamo i conti con l'ala conservatrice della Chiesa, quella che vuole lo scontro di civiltà, lo scontro di religioni. Cioè, voglio dire, dall'altra parte abbiamo l'ISIS come, che appare nella comunicazione come l'unica voce dell'Islam. Non è vero, l'ISIS non c'entra niente con l'Islam. L'ISIS, a parte il fatto che è il prodotto, e io definisco un organismo culturalmente modificato, un OCM, il prodotto della guerra fredda, l'ultimo atto della guerra fredda, è una guerra per procura che tende comunque a indebolire la Russia, andando ad attaccare i suoi fornitori e i suoi alleati come Assad. Ti sorprenderà forse, non so se ne farai un punto d'onore, ma oggi sul sito di Famiglia Cristiana, insospettabile, Fulvio Scaglione dice esattamente queste cose. Da anni ormai si sa cosa bisogna fare per fermare l'ISIS e i suoi complici. L'ISIS la definisce come una scheggia impazzita di una strategia americana contro la Siria. In questo momento nessuno può più fermare. È Famiglia Cristiana, però come vedi anche la comunicazione nel cosiddetto occidente cristiano è molto frammentata. Ma non viene ascoltata questa versione, cioè questo punto di vista, perché la maggioranza è filoamericana, è cristiana filoamericana. Quindi adesso io non, la scheggia impazzita, detto in soldoni, molto velocemente, è una costola di Al-Qaeda che era stata creata dagli Stati Uniti per indebolire e sconfiggere i russi all'epoca dell'Afghanistan. Si è staccata ed è diventata autonoma ed è impazzita, nel senso che siccome l'appetito viene mangiando, hanno cominciato a sognare il califfato. Al-Qaeda in Iraq, detto Aki nel linguaggio per acronimi del Pentagono, è diventata Stato Islamico. Ma è come affondare un coltello nel burro, però ha trovato, diciamo, la strada abbastanza. Sì, lì non c'è, c'è nulla, abbiamo lasciato solo macerie, quindi lì è facile appropriarsi di territori e di e convincere anche le persone. D'altra parte lo Stato Islamico fornisce gratis, illimitato, acqua e energia elettrica. Quindi uno che vive in quei territori, che non sono certamente agevoli, ci fa un pensierino. È uno Stato forte che prima non c'era. 800240024, il vostro punto di vista. Come vi sentite comunicati questi due mondi contrapposti di cui abbiamo solamente delle punte parziali, come vedete? Lo stiamo saggiando, vedendo, osservando, ma entreremo ancora più nel profondo. Loredana, buongiorno. Buongiorno. Pensavo tante cose e inoltre questo, perché non combattere il male, questo male, perché è il male proprio, attraverso internet, come fanno loro per racimolare ragazzi, cioè facendo... Ma ragazzi per fare loro, cosa? Guardate che una volta dentro diventate schiavi e non potete più uscirne e descrivere cose che possano incutere un pochino di paura, di terrore, anche queste ragazze che vengono, chissà cosa credono, vengono, cioè combattere con la loro... Sì, ma scusi, non ho ben capito, reclutare chierichetti per andare a combattere l'ISIS, quale sarebbe la somma di questo reclutare in internet, per fare cosa? No, sì, nel descrivere che quello che non vanno a combattere per avere poi queste 10 spose... E come fa a dirgli che non è vero? Scusi, come fa, come io potrei convincere lei che non è vero che in cielo ci sono... Scusi, come faccio a convincere lei che non è vero che in cielo ci sono gli angeli, gli arcangeli, i troni e le dominazioni? Contro un atto di fede non c'è nulla da fare. No, scusi, fare loro paura di quando... Ma uno che non ha paura di morire, anzi, che cerca la morte come massima soddisfazione, cos'è che può fargli paura, secondo lei? No, io dico... alla radice, non una volta dentro se vengono indottrinati, ma questi vengono presi attraverso internet, per cui ci deve essere contemporaneamente una strada in internet di noi. Sì, ma lei cosa gli offre? Questi gli offrono la felicità assoluta. Dice loro, guardate che una volta dentro diventerete non lo so, promettere del gli promette. Prospettare una fine tremenda se non fanno ma non è tremenda loro, scusi. No, il martire non fa una fine tremenda, fa una fine gloriosa comunque, ma questo vale anche per la nostra civiltà. Il martire cerca il martirio perché con il martirio comunque va in una vita eterna, per loro è fatta di vergini e di trombate, per noi è fatta di contemplazione di santi e di Dio e di Madonne, ognuno ha il suo paradiso, però è il loro paradiso. Ci fermiamo un istante, tra poco. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'istituto tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta tutti i giorni alle 9 Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Melog. Cronache meridiane. The global abolition of the death penalty. I am convinced. Accolto da un fragoroso applauso, Papa Francesco si presenta al Parlamento a stelle e a strisce come un figlio di una grande nazione. Diretta è anche la richiesta di abolire la pena di morte. Ed ecco un processo sommario con i metodi di ripresa e montaggio sapientemente usati e le scenografie adatte. L'imputato è una spia e infatti questo filmato si chiama Scoraggiare le spie 1. Lasciando presagire puntate successive. L'uomo deve dire nome e cognome, deve denunciare complici, ma sarà il suo accusatore a farne i nomi. Poi, accompagnato nel deserto, viene crocifisso. È la prima volta che 800240024, facciamo un passo addietro e cerchiamo di capire quali sono le strategie di marketing, di comunicazione dei propri valori che stanno usando in questo momento i due blocchi contrapposti. Esiste una contrapposizione di blocchi. È difficile definirne i confini, definirle l'entità. Noi stiamo analizzando le punte più visibili, che non è detto che siano quelle più rappresentative. Da una parte la strategia di marketing strategico messa a punto all'ISIS, che non è rappresentativa comunque di tutto il mondo islamico, che si esprime, ma il suo esprimersi molte volte non passa con la stessa evidenza attraverso i media, perché evidentemente quella strategia è mediaticamente più efficace. D'altra parte, il mondo occidentale, che trova una maniera confusa per rappresentarsi, che trova forse la sua punta più forte, o perlomeno da un punto di vista di comunicazione più efficiente, che è quello che dice il Papa, che però anche il Papa in questo momento si trova in un momento di palese difficoltà, perché quello deve essere il momento più importante di tutta una strategia di comunicazione di un valore che è il giubileo straordinario, si trova allo stesso tempo ad essere un luogo di potenziale martirio per chi lo frequenta, perché il fatto che sia diventato un centro strategico per eventuali attacchi, il luogo sacro per eccellenza, il giubileo, che è San Pietro dintorni, è un dato di fatto. Leggo un ascoltatore: differenza tra loro e quelli dell'ISIS e noi cristiani occidentali. Loro ci attaccano con pugnali, Kalashnikov e cinture esplosive, noi reagiamo con hashtag, YouTube e condividi. Loro hanno capi religiosi che inneggiano al martirio, la jihad, la conquista dell'Europa. Noi abbiamo capi religiosi che rubano le offerte, si drogano e vanno a puttane. Loro hanno fedi ignoranti, fedeli ignoranti, vanno alla moschea e seguono le parole di mamma. Noi abbiamo fedeli che vanno in chiesa solo per mostrare agli altri la pelliccia, il nuovo smartphone, il grosso SUV. Loro sono convinti che se sgozzano un infedele conquisteranno il paradiso. Noi siamo convinti che se non regaliamo loro hotel a 3 stelle, smartphone, wifi e 35 euro al giorno, non andremo mai in paradiso. Secondo voi chi vincerà questa guerra? Bruno Ballardini, rispondiamo all'ascoltatrice. Quella di prima. Sì, quella di prima. Beh, io cito il mio amico Fuad Allam, che parlava di non radicalizzazione dell'Islam, ma islamizzazione del radicalismo. Qui stiamo parlando di ragazzini, che una fascia d'età che va dai 18 ai 24, 17 ai 24 anni, che stanno nella cosiddetta età stupida, cioè quella in cui fioriscono gli estremismi, questi che contestano le famiglie perché sono troppo integrate nell'Occidente, perché sono moderate, eccetera, eccetera, e non trovando altri valori, perché questo è un problema che coinvolge anche la crisi della nostra civiltà, cioè noi non abbiamo più valori. Quindi quando questi vanno a cercare valori forti, cosa trovano? L'unica ideologia forte ed estremista disponibile è quella dell'ISIS, che è il salafismo, il wahhabismo. È paragonabile a una setta cristiana come Milizia Cristi, che però improvvisamente si arma con i Kalashnikov e comincia a sparare agli altri cristiani, ma non solo, ma anche agli altri diversi che non sono, come se Adinolfi smettesse la cintura esplosiva, esatto, e andasse in giro, non esatto, rappresenterebbe nessun altro. Leggo qualche sms, così dai anche l'idea di come passa poi l'informazione. Dai Nicoletti, lo sai, la discoteca di proprietà ebraica, quindi, ma dillo. Non so cosa devo aggiungere. No. Chiaro, può essere un obiettivo magari più mirato rispetto a altro, ma non credo nemmeno tanto. Troppe chiacchiere, meglio usare i loro metodi, andare a spianarli con i carri armati. Ci vada lei. Ma se sei un maschio, hai 10 vergini, la donna cosa ha? Niente, una mazza. Dire che l'Islam non c'entra nulla con questo terrorismo, dire che è azzardato. Un altro mi dice invece è come dire che dell'Inquisizione è responsabile ogni cattolico. Abbiamo una telefonata. Abul Khair, buongiorno, ho detto bene? Buongiorno a lei, agli ospiti e agli ascoltatori. Lei fa parte di un direttivo dell'Associazione Islamica Italiana? Degli imam e delle guide religiose. Quindi mi faccia un paragone, lei chi rappresenta? Io rappresento gli aderenti a questa associazione, che raccoglie una buona fetta di imam e guide religiose che operano nelle varie moschee e centri islamici sparsi sul territorio nazionale. Siamo qui ad ascoltarla. Beh, niente, io penso di poter parlare anche a nome di tutti i musulmani d'Italia, ne sono convinto, per condannare nella maniera più assoluta, più decisa, più ferma, attentati del genere che non trovano assolutamente nessuna giustificazione nella nostra religione. Questi sono persone che prodotto distorto di una comprensione assolutamente, non direi estremista, perché non c'entra con l'Islam stesso, di una loro mentalità distorta, malata, che purtroppo, come ha ricordato qualcuno dei vostri ospiti, strumenti di guerra tra potenti del mondo, utilizzati anche dallo stesso regime. C'è da dire una cosa, sì, se lei mi permette. Prego, prego. Il Gran Mufti del regime siriano, video c'è già in giro adesso, è lui stesso che minacciava la Francia, diceva letteralmente l'Inghilterra, gli Stati Uniti, eccetera, di mandare dei martiri da farsi esplodere. Ma è un'autorità religiosa riconosciuta universalmente o rappresenta soltanto, diciamo, la voce? È il Gran Mufti, autorità del regime siriano, per cui questo attentato... Io non posso naturalmente dire chi sono di preciso, però c'è questa teoria anche del regime stesso che vuol appunto minacciare l'Occidente e incolpare naturalmente. È troppo facile dire Allahu Akbar e poi etichettare. Senta, mi fa capire una cosa, guardi, lei ci ha chiamato, mi fa molto piacere, quindi vuol dire che la nostra missione è seguita. Anzi no, facciamo una cosa, può rimanere al telefono un minuto, così facciamo la pausa e abbiamo più calma, sennò è la risposta affrettata. Mi interessa avere il suo parere. Attenda solo un istante, sentiamo fra un istante. Melog. Cronache meridiane. (800) 24 0024, stiamo parlando di comunicazione, proprio un momento in cui sembra la verità la prima vittima di questo combattimento fra civiltà, che è in dubbio, però bisogna probabilmente cercare con la necessaria serenità e spirito di attenzione capire quali sono esattamente le fonti. Ci ha chiamato spontaneamente al nostro numero 800 24 0024 un signore, Abul Khair, che ancora è in collegamento, fa parte del direttivo dell'Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide Religiose. Una cosa che ha detto lei poco fa ha lasciato qualche perplessità nelle persone che stanno in studio qua con me, vediamo se ho capito male. Lei in sintesi accuserebbe Assad e la Siria di essere il mandante degli attentati a Parigi? Ma Dio, l'ha dichiarato molto esplicitamente, senza mezzi termini, il Gran Mufti del regime. Se volete vi mando il video audio, non è una cosa così inventata. Questa, io dico, è una delle ipotesi che non dovrebbe essere esclusa, perché è interesse del regime sporcare l'immagine appunto dell'Islam in generale. Poi che siano l'ISIS posso anche crederlo, perché no, ci mancherebbe altro, ma l'ISIS non è l'Islam, per favore, per carità, per piacere, insomma. Ma su questo mi sembra che è stata la premessa di questa trasmissione. Allora, prima che Bruno Ballardini le faccia una domanda su questo che è interessante, io voglio capire quali problemi concreti vi sta causando nelle vostre organizzazioni, nelle vostre comunità, quello che sta accadendo. Da una parte avete delle difficoltà a prendere delle prese avere delle prese di posizione nette, precise, di ferma condanna, di dirlo apertamente, o avete la necessità comunque di gestire un dissenso generale che in fondo, sì, senza essere, come accadeva in Italia ai tempi delle Brigate Rosse, né con lo Stato né con i brigatisti, senza essere necessariamente e apertamente d'accordo, però si sta attento, in fondo sono sempre persone che combattono per qualcosa in cui anche noi crediamo, che è l'affermazione di un credo religioso. Ma, per quanto riguarda i nostri interventi, le nostre condanne, la nostra reazione immediata, spontanea, non ha aspettato neanche un secondo. Manifestazioni a Milano, a Roma, documenti, dichiarazioni, conferenze stampa, l'abbiamo fatte io stesso, la nostra organizzazione e tanti altri, voglio dire, con sit-in, manifestazioni, eccetera, per manifestare la nostra vicinanza al popolo francese e la nostra condanna ferma, senza mezzi termini, senza nessuna giustificazione, a questi criminali che sporcano la nostra immagine e l'immagine della nostra religione, per cui non abbiamo niente da temere per condannare, anche se qualche volta con discussioni interni ci sono delle idee differenti, e questo è normale, nel senso che dire ecco è la colpa dell'Occidente che ha colonizzato le nostre terre, che ha impoverito la nostra gente, che continua a buttare bombe sulle nostre teste eccetera, ma questo non giustifica assolutamente. Quindi avete anche voi diciamo una necessaria, un necessario sforzo nel gestire una dialettica possibile all'interno di questo problema. Bruno Ballardini. Ma io noto un abile uso della parola regime, che è già un giudizio di valore sul fatto che Assad sia un feroce dittatore. Mi fa ricordare quando noi dicevamo che Saddam aveva le armi di distruzione di massa, era, insomma, questi regimi dall'oggi all'indomani divengono regimi canaglia, secondo poi la classifica che viene stilata dagli Stati Uniti. Ora, la posizione esposta poc'anzi mi assomiglia molto a quella dell'Arabia Saudita, cioè i sunniti in sostanza. Sappiamo l'odio che c'è fra sunniti e sciiti, ma questo non deve assolutamente convincerci che tutto sia ridotto a quello. C'è dietro una proxy war, una guerra per procura fra due lati del mondo, che sono la Russia e gli Stati Uniti, per le alleanze locali, per l'approvvigionamento di energia. Quindi Assad è il nemico da battere perché è alleato della Russia, fondamentalmente. Noi siamo con i corrotti sauditi e quindi con l'interpretazione più estrema del sunnismo, e in mezzo ci sono tutte queste chiacchiere che sono propaganda di tipo religioso ideologico. E quindi, se uno volesse dare una idea, aspettiamo un attimo. Salem, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Senti, gentilmente, io sentivo quelle dell'imam che parlava e tutto di quelle del regime di Assad, quelle che ha mandato. Sì. Ma ragazzi miei, allora o non abbiamo capito nulla o facciamo finta di niente. Lei chi è, Salem? Si qualifichi, lei è un musulmano. Io non sono praticante, ma io sono laureato in lettere e scienza politica e seguivo queste cose qua. Però vedo che le cose siete fuori binario di tutto. Siamo qui ad ascoltare le persone che ci danno dei contributi. Allora, signori miei, se lei vede tutti i terroristi, i gruppi terroristi sono religione sì musulmane, ma sono sunniti. Ho capito, lo sappiamo. L'abbiamo detto adesso, sunniti e salafiti, l'abbiamo detto. Sì, benissimo. Allora, se noi guardiamo bene quegli ospiti lì dell'imam che parla, ha detto che il mufti del regime, ma quelle lì video su internet, ma c'ha 10 anni, 15 anni fa. Io l'ho visto con un altro video sul Mayadin, proprio lui che parlava insieme con cristiani, ebrei, tutti facevano le preghiere insieme. Ma perché uno parla così, spara nel mucchio senza vedere? Allora guardiamo un po'. Sì, però sai, scusa, si usa così da noi, si ascoltano i pareri delle persone, si mettono in contrapposizione, poi si cerca di tirare delle conclusioni. Nespa ha detto la sua, ma sembra che sia stato in parte rettificato, oppure presentato il problema sotto un altro punto di vista da Bruno Ballardini, che non a caso sta qui in studio. Quindi lei è d'accordo con quello che diceva Ballardini poco fa, che in realtà è anche articolata e difficile la composizione dell'Islam, che non può essere semplicemente racchiuso e chiuso in una semplice parola, una semplice definizione come fanno tutti. Vediamo, Bruno, se riusciamo a far capire al nostro pubblico, che non è detto che abbia sempre gli strumenti raffinati di interpretazione, una realtà già in sé complessa, quello che vuole dire il nostro ascoltatore Salem. Ma lui ha ragione. Sì, sì, è quello che dicevi te praticamente. In sostanza ha ripetuto quello che dicevo io. Dobbiamo riuscire a distinguere il sunnismo, i sunniti sono circa l'80% dell'Islam. Poi ci sono però gli sciiti, che sono altra tradizione importante. All'interno di questi ci sono fasce estreme, delle scuole di pensiero estreme, che si fanno la guerra, ma questo non significa assolutamente che i sunniti siano guerrafondai e nazisti, come nemmeno gli sciiti in generale. L'Islam è una religione pacifica, non possiamo pensare che 1.600.000.000 di persone siano tutti terroristi, perché questo è assolutamente ridicolo, assolutamente ridicolo. Diciamo che sotto Assad convivevano varie scuole, varie religioni, compresi i cristiani, perché ci sono i cristiani di Siria che sono una grossa comunità, non dimentichiamolo, ma questo non faceva molto piacere ad alcuni che sono legati ideologicamente all'Arabia Saudita. Questo è, va detto, noi non sappiamo nulla di queste cose, ma è ora che qualcuno cominci a spiegarle, perché noi siamo profondamente ignoranti di Medio Oriente e di Estremo Oriente, sono gli altri, diversi per noi. Una cosa è certa, abbiamo molti ascoltatori che ci chiamano, che in realtà appartengono a questo mondo. Mustafa, velocemente, a pochi secondi, solo per far capire che ci stanno chiamando in molti anche musulmani. Mustafa, buongiorno Mustafa. Buongiorno signori, sono Mustafa della provincia di Bergamo. Scusa, noi come la comunità musulmana, soprattutto quella marocchina, noi condanniamo fermamente questo atto terroristico, perché sono andati in mezzo anche i musulmani, c'è anche in mezzo un marocchino di 26 anni, ingegnere, che è andato lì. La seconda cosa è che la Francia, l'America, l'Occidente in genere, no, escluso, no, nessuno escluso. Loro appoggiano, hanno capito il terrorismo, c'era il Belisis. Certo. Un video, come ho detto qua. Esatto. Quello che abbiamo detto. Allora guardi, visto che l'argomento è complesso e la sigla ci sta interrompendo, riprenderemo, visto che abbiamo una così grande massa di ascoltatori che si rifanno appunto a quel mondo, a quei valori, daremo voce anche a loro. Alla prossima.